La volpe e l'uva, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Una volpe, chi dice di Guascogna e chi di Normandia, morta affamata, andando per la via, in un bel tralcio d'uva s'incontrò, così matura e bella in apparenza, che damigella subito pensò di farsene suo pro. Ma dopo qualche salto, visto che troppo era la vita in alto, pensò di farne senza, e disse: «È uva acerba, un pasto buono per ghiri e per scoiattoli. Ciò che non posso aver, ecco ti dono». Fine della favola, La volpe e l'uva. Questa registrazione è di dominio pubblico.